Che parli tu di morte? Ascolta, il tempo stringe. Rivolta già su me la folgore tremenda. Tu più non sei oggi il rival del re, il fiero agitator delle Fiandre. Salia! Chi potrà prestar fe? Le prove son tremende, i folli tuoi trovati mio poter. Della ribellion testimoni son chiari, e questo capo al certo a prezzo è messo già. Svelarvo tutto il re? No, ti serva la Fiandra, ti serva la grand'opera, o la dovrai compire. Un nuovo secolo d'or rinascer tu farai. Regnare tu dovevi, ed io morir per te. Ciel, la morte per chi vuoi? Per me, la vendetta del re. Tardare non potea. Gran Dio! Ascolta, la madre t'aspetta a San Giusto doman. Tutto ella sa. Oh. animali.